dove c'è il limite di 50, cioè non è che puoi andare a Porto Torres quasi a 50, uno magari quei 10 anche 20 km orari in più li tiene, e se ti capita è un casino, sia per il portafogli sia per sospensione di patente, capito? Ecco perché io mi faccio sempre superare, però così casomai castagnano gli altri prima di me, capito? Mi fanno da battistrada. E invece la notte me l'ho salvata sulla 131, c'erano quelle macchinette, quelli a raggi ultravioletti, quelli che usavo di notte, che fanno proprio la fotografia, e c'era un altro treno, lo stavo superando e praticamente ho visto all'ultimo momento la polizia e ho rallentato, quindi sono stato dietro l'altro treno e a me non mi ha rimbizzicato. E quindi anche di notte ti becca? Cioè riesci a leggere la targa anche la notte? Così? Sì, tempo fa praticamente faceva tipo un lampo della macchina, tipo un flash, dai. Non vedevi perché faceva il flash, però non lo so se usano ancora quelle macchine, se le usano ancora. Un tempo c'erano, me lo ricordo bene perché proprio lì di fronte a Marì mi è capitato. Sono sorpassato questo autotreno qui all'ultimo, visto che c'è la pattuglia, e sono praticamente rallentato, quindi l'autotreno è andato avanti e io sono rimasto dietro, capito? L'ho preso a lui. Sì, guarda, io con le nuove, dopo i nuovi sviluppi, io non voglio pensare, te ne immagini a guidare, modulare col microfono in mano e ti beccano in pieno, e lì come avere il cellulare, mi, ogni giusta, ogni multa, e più che la multa, ma anche la sospensione della patente, se ti dicessero lei per 3 mesi non può guidare, e cosa faccio? Marco, io guarda, ci ho parlato adesso, no perché c'è poca gente, ma quando c'era gente io parlavo con il microfono sopra la gamba, tante volte ti ho detto come mi senti, tu dicevi bene, bene, e ce l'avevo sul ginocchio, capito? No, guidavo tranquillamente e ce l'avevo sul ginocchio, poi se li vedo lo butto sopra il portaoggetti e cosa mi possono dire? Sto facendo ascolto, a meno che mi chiamino quel momento, Gianni, te li... No, bello se davvero, c'è il bar, stai modulando, no? Non ti vedono modulare, però ti fermano, ma che ti fermano c'è qualcuno che ti dice a baracchino, e beh già, mi non farti vedere che stai modulando dalla stradale, e lo sentono in diretta. Mi siete sovramodulati, chi era l'altro? Con me qui c'è soprammodulato. Già, io ho quello dell'899 che va attaccato alla maglietta ed si attacca automatico. Hai capito? Quando parli si attacca. Ah, ho capito. Sì. Vabbè, ma io c'ho il microfono che va bene, ma se che lo metto sulla gamba mi sentono perché me l'ho amplificato, anche se è un microfono normale, però dall'apparecchio c'è l'amplificazione, tu già lo conosci, ma che il mio apparecchio quello che usa in macchina. Poi già c'ho un anno, c'è già 30 anni del radio in macchina. Sì, l'amplificato va bene, no, dicevo già, quando abbiamo parlato in due, ho detto magari stai modulando, no? Vedi la stradale, tu lasci il microfono, no? Tanto non ti hanno visto, magari nel momento in cui ti fermano il baracchino ce l'hai acceso ancora e dicono, ti dicono via radio, già non ti far vedere che stai modulando dalla stradale, immagini. Prima diceva luci blu sulla 131 per dire ai punti, ti avvisavo. Ma poi tra automobilisti ci si faceva il lampo luci, no? Per dire magari che dietro una curva c'era la cosa, però guai, anche quello, tutto ormai è sanzionabile. E poi sono cose, certe volte si spingono oltre, adesso per sentito dire, cioè questo di chiederti il telefono sempre che sia vero, o quello che dicano, no, lei il baracchino lo deve spegnere perché sennò noi potremmo supporre che sta modulando, cioè certi si escono con cagate del genere, se trovi lo sbruffone, capito? Magari ti va a fare la multa e tu non hai fatto niente. Loro ti possono dire anche, noi l'abbiamo vista col microfono in mano, è la nostra parola contro la sua, avanza. Ma come fai a dirlo tu che dal vetro tu a me non mi fidi? No, che vai proprio non dirmelo a me. Io una volta me l'hanno detto, dice, ma lei stava modulando. Sono vedete, guardi qua. Il microfono è tutto dalla sua base appiccato. Tu non lo sai, ma io ho un amico che era della stradale, adesso è in pensione, e ha detto che qua praticamente in pattuglia che avevano anche l'apparato della 27 e quando avvisavano le macchine che dicevano luci blu e cose ti fermavano, capito? Lo sentivano e ti fermavano. Caspita! Quello è brutto, ma ai tempi d'oro del baracchino, quando erano molto diffusi, no? Quando lo usavano i camionisti, mi ha detto anche che a questo camionista gli hanno trovato un lineare da 1200 watt, gli ha detto, dove c'era il lineare? Perché dice che gli entrava nella radio, a loro, cazzo, ce l'avevo vicino, gli entrava nella radio, 1200 watt, gli ha detto, lo prendo io, quindi dobbiamo sequestrare il camion e cercarlo noi, lo portiamo in caserma e lo cerchiamo noi, e alla fine gliel'ha dovuto dare. Gli hanno messo 1000 passeggeri di multa. E gli è andata anche bene. Adesso questo più lineare, cazzo di lineare di ghira. Era pesante, ha detto, proprio bello grosso, 1200 watt. Antonello c'è ancora? Ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao. Se non mi metto bene il nome. A fragile andare così. Ciao Antonello, se mi stai ascoltando, se sei ancora in Kiwi. Ci risentiamo alle prossime, ok, ciao a tutti. Ciao, ciao Antonio, ciao. Buona serata, dai, e buona carica quando la fai. Saluti anche io, ciao Marco, ciao Antonello, e ciao a tutti gli ascoltatori. Saluto anche io, che l'Italia mi sta chiamando e vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao Tore, ci sentiamo con collettivo tutti e due. Avanti Marco. Cappa, ciao Tore, buon Coretti, Gianni, idem con patate, buona passeggiata col cane. E ci sentiamo. Le patate già mi piace. Marco, ti racconto quello che è successo una volta a me e a Andrea Maricomio, quando c'era la 1 con la centro cappotta. Eravamo russi, stavamo rientrando e questo carabiniere ha fatto posto di blocco all'ingresso di Sassari, proprio in via Rockefeller. E ha chiamato Andrea e ha fatto, Andrea Maricomio, dice, ehi, dimmi, sono, gli ha detto lui, non mi attivo. Ma che macchina è? E lui ha fatto, no, c'è uno, ciò. Dice, vabbè, comunque, quando sei a Sassari, dice, chiamami che così andiamo a bere. All'ingresso di Sassari, che aveva la battuta, ha detto, attento di Beto, gliel'ho chiesto. E lui è rimasto così, dice, prego, dice, cosa c'ha il baracchino, signor Andrea Maricomio? Sì, faccio sapere, non mi dà tipo, dice, perché c'è una grande macchina, i baracchini fatti. E quindi sgamato, dai. E sgamato proprio, poi ha detto, io venite con me, ha preso a me, dice che andiamo al bar, e gli ho detto la bagassa soglia, gli ho detto, cazzo, ho detto, ma un pericolazzo che ti ha fatto pigliare la canzone, gli ho detto, era un cibì che era una valigia serma, che aveva fuori strada. E quel giorno era di pattuglia, aveva il portatile, lei con quello verde, piazzato nella, come si dice, nella portiera, capito? E l'antenna magnetica era dietro il lampeggiante, ma con la vedevi, quella piccolina, con l'antenna in gomma. Sì, mi ricordo. Io tuttora ne ho una, cioè è presente il Max Con 7, cioè con la basetta magnetica con l'antenino corto in alluminio telescopico, no, volevo dire, e poi c'ho la stessa basetta marcata Intec con l'antenino di gomma corto, saranno 30 centimetri. Ce l'ho tuttora, funziona sempre, stazionarie, vabbè, diciamo accettabili, a filo di due, ma accettabili, dai, se non fai passaggi lunghi. Io lo sapevo, quando appena arrivo lo sapevo in moto, io se ti ricordi, nello scuba, appena in gomma, da via d'Italia chiamavo a Pesciolino, gli faccio Pesciolino, e lui, è finito di rompere le balle, me lo metto, capito? Vengo lì e ti sfascio il culo, e mi diceva, io dico, stai zitto, Pesciolino. Anche tu l'avevi messa in moto. Io per prova l'avevo messa in moto con l'antenna veicolare, 12 volt della batteria, e funzionava, ma poi l'ho tolta subito dopo, manco per chi mi vedeva. Diciamo l'antenna dietro, quello in gomma, capito? E l'apparecchio era quello fine della Intec, c'era un cassettino di davanti, quindi facciamo altro, capito? Il cassettino c'era l'apparecchio dentro, con microfono. E quando andavo lì, la usai, non sapevo cosa fare, andavo e rompevo i coglioni a Pesciolino, rompevo i coglioni. La facevo schiattare, faceva, allora era innamorato di quella ragazza di Russia, parlava più giù di con quella, io lo facevo schiattare e dicevo, tanto non te ne dà, Pesciolino, a te non te ne dà, da me, a te non ti dà nulla. Io sei cattivo. lo so che ero cattivo, vuoi per dire. Buongiorno, che a te ben sentito. Ciao Coco. Ah, come va? Andava avanti Marco. Sì, ciao l'amico, non ho riconosciuto la voce, dai, non so il nome. Cosa ti volevo dire Antonè? Io Pesciolino l'avevo sentito come nome attivo, ma mille anni fa, così anni 80, può essere, primi 90, poi non più. Vabbè, poi avevo smesso anche. Sì, ma che abitava, perché è morto lui adesso, quel ragazzo, abitava proprio nei passi di Antonio Bombolo, capito? Sparito, eh. Aspetta che sto bevendo, aspetta, avanti l'amico in mera mobile. Sono Cristian, vabbè, c'era, cosa è morto, perché... Era morto, sì, da parecchio tempo, è morto, figurati. I tratti diventato vero, la sorella che abitava al centro storico, e basta. Ma io sono andato con una ragazza con le sigarette, al bar, non ho capito, cioè il QRM ti ha sorpassato, ti ha in che trova, sì, mercato civico, mercato civico, quindi a centro storico, sì, è una zona che sia buona per me, ti tappa il grattacielo e tutta quella roba che c'è prima, è una zona buona che si è aperta, zona monte, qualcosa del genere, almeno vivi bene, c'ho un po' di QRM, c'ho. QRM, sì, tu sei 7 quasi di segnale oscillante. Avanti Marco. No, qui arriva bene, il segnale è quasi 9, vabbè, più vicino, però per essere al mercato civico il segnale non è forte. Oh Cristian, che antenna stai usando in macchina? No, ma dico lunghezza, com'è? Media, medio piccola, medio lunga? Ah, buono, ma 3,5 è buono, è giusto compromesso, perché tanto guarda, 1 metro già è un po' risicato, avevo fatto anche delle prove, 1 metro, vabbè, il minimo sindacale, 1 metro va bene dentro la città, ecco, 1,5 metri va bene anche fuori città, 2 metri diventa impegnativa, tipo quelle, come si chiamano, quelle che usano nei camion, che hanno anche il doppio room, la Turbo 2001, quella, a parte che quella è anche pesante come antenna, vabbè, lui l'ha usata tante volte, però anche lui si è stufato anche di quell'antenna lì. Adesso Gianni ne ha una magnetica, sì, siamo sul 1,5 metri, mi pare, anche quella che usa Gianni. È la cosa migliore, va bene sia in città che fuori. Poi se c'è qualche watt in più, meglio ancora. Ma guarda, io so. Ho capito, e lo snodo, si è riuscito a trovare lo stesso snodo, dai, o un adattatore. Quale io l'ultima frusta nera, quella lunga 1 metro, l'avevo regalata, nuovissima, nuova di trinca, l'avevo regalata a Natalino, poveretta, non se l'è potuta nemmeno godere. Bah, vabbè, dai, Antonello riprendi. Io richiedo una frusta nera, tipo frusta nera. Antenna di quella con mollone antica, ma già funziona. L'altra c'era Antonio, c'era quello che mi ha dato il barattino a me, c'era lui con la magnetica. Io ho la tubo di B1 di qua, la mini che è andata un metro qualche cosa, però esce bene. No, l'avevo usata una volta a me, anzi l'ha usata Giovanna, che è stata nelle cose, nella caldaia, e modulava da lì, modulava dalla cucina d'estate. Adesso per il tempo che ce l'ho, poi l'apparecchio ce l'ha conservato, c'ha l'alimentatore, c'ha tutto, c'ha anche il microfono amplificato, una power fuel e l'antenna grande che ho regalato io, c'ha tutta la funzione completa in pratica. Intanto mi arriva un bip dal telefono perché sono iscritto in quel chat di Alghero dove ci sono tutti i CB che modulano di Alghero. Ma modulano in chat o modulano a baracchino? Perché alla fine sono tutti in chat, allo baracchino non vai mai nessuno. Ma stanno parlando in chat, però adesso devono fare una prova, adesso non mi ricordo se questa settimana, devono entrare tutti sul canale 15 per provare chi si è fatto l'antenna per i fatti sui, capito? E quindi devono usare il baracchino. È vero, il 15 era il canale di Alghero, modulavano lì. Il problema è che quasi perennemente sul 15 c'è un segnale come di propagazione, un segnale confuso. Senti come una specie di modulazione, non capisci se è in AM o in FM, però metti l'FM e non è capibile. È come se fosse un misto di modulazioni che modulano in AM, si sovrappongono e non capisci né l'uno né l'altro. Ed è quasi costante. Io non ho capito se sia. No, non può essere il baracchino. Mi sono risposto da solo, il baracchino non può essere perché ho provato con vari baracchini. È come se fosse un canale di ritrovo di varie nazioni. In Europa, capito, non in Italia. È praticamente quasi sempre occupato, senza Alghero io non lo sento, non credo almeno di sentirlo da qua, quando c'è quella propagazione lì. No, non lo senti, no, anch'io ce l'ho quel segnale che stai dicendo tu, è tutto una sovrapposizione di modulazioni, non si capisce nulla, addirittura arrivano 10 quel segnale d'acqua, capito? Invece poi, per dire, vale 27 e 200, lì ci sono i russi, parlo con la Russia, poi c'è il ponte radio lì, di quelli pappagallo simplex, e mi ascolto la voce, mi ascolto quando faccio le prove. È vero, sul 20 è ricomparso il parrot, penso che sia di propagazione perché il segnale varia, e lo agganciavo, mandavo un messaggio, sentivo la c'era su di Italia che chiamava. Il problema è che quel parrot non va usato così, perché praticamente non fa altro che registrare per quel minuto di registrazione e ritrasmette, registra tutta la mondezza che sente e la ritrasmette, alla fine non riesce a usarlo. Invece dovrò fare intelligentemente, tanto ormai i baracchini moderni ce li hanno, un Parrot che ovviamente è collegato a un baracchino con i subtoni, in modo come un ponte, in modo che lo puoi sbloccare solo col subtono giusto. Per esempio questo baracchino i subtoni ce li ha, come in VHF, come in UHF, capito? Come PMR anche. E quello sarebbe bello, in modo che si sblocca solo quando c'è il segnale adatto, col subtono adatto, se no prende sempre il QRM e lo ritrasmette all'infinito, capito? Non fa in tempo a chiamare, non si può usare così, in poche parole. Vai Cristian. Aspetta, puoi ripetere che la modulazione è un po' bassa. Vabbè, non ho capito che prova avete fatto, ho capito che avete parlato in FM con Gavino. Sì, ho capito, sì, ogni tanto cambia frequenza, mi è capitato mesi fa, era in primavera mi pare, è capitato sull'11 e ti ritrasmetteva papale quello che dicevi. Non so se sia dalla Spagna, una cosa del genere, Antonella mi pare lo sapeva, se era Spagna, Portogallo, quel Parrot. Antonella? Ah, roba della Polonia, capito. Addirittura quello che c'è su canale 20 è bello, perché all'inizio senti questa macchina che parte, che suona, poi senti questa qui parlare in inglese, dopodiché ti lascia il coso libero e poi c'è il GPP finale, un po' come quello che c'hai tu adesso. Allora, io ho sentito che è una specie di ding dong, fa dun dun. No, quello era un altro, quello era su canale 5, quello che stai dicendo tu, che c'era il ding dong, perché c'era solo due o tre di quelli, c'è uno, mi sembra che su 5 in FM e l'altro era su canale 20, poi non mi ricordo se c'erano altri, comunque li abbiamo registrati. Poi un giorno ho sentito questa, ce l'ho registrata nel telefonino, nell'altro, questa ragazza cinese che stava facendo chiamata, ogni secondo diceva sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, in automatico. Number Station, ne hai mai sentite in HF? No. Scoppiato Antone, forse abbiamo parlato in due. Ecco, Number Station, ne hai mai sentita in HF? La verità no, anche perché nella frequenza HF mi ha cucciuvato, non mi frega niente, se rimango 27, non vado in 40, 45, tanto per dire, già sono là lì che non ci vado. Ma con il 28 addirittura, anzi il 28 sì, qualche volta. Di solito andavo sui 29,7 a sentirmi, come si chiama, le trombate diretta che facevano con quei portatili che si usava in casa. Oh, è vero, 29,7, c'erano dei portatilini tipo radiogiocattoli. Ebbene, la stessa cosa che io ho fatto in 49 MHz con i Maxon, erano 10 milliwatt, cioè 49 MHz, 10 milliwatt, arrivava a manapena di fronte, ma le zozzerie che ci dicevamo, speriamo non ci abbia sentito nessuno nel raggio di 100 metri. No, non penso che abbia sentito nessuno, ma io già mi sentivo, immagino che quando sono andato in Via Alghero un giorno a casa di Angelo De Fino, mi ero superato il cable da presso. C'era quello di fronte a casa sua che c'era l'apparecchietto lì e c'era già andato direndo, ti sei un disgraziato Antonio, faceva. Bel periodo quello Antonè, e anche i telefoni 46-49, porca miseria, ne ho uno funzionante ma ormai non lo puoi collegare a nulla, non funziona con le fibre ottiche, con i modem, 46-49, anche perché la gente non capiva che era una ricce trasmittente in chiaro, capito? Credevano fosse un telefono tipo a filo, no? E vabbè, è così, cellulare in chiaro, eccetera. Comunque un cellulare che non mi ricordo la cazzo l'ho visto, vediamo un po' il faccio che vediamo se... Aspetta. Ma io ti faccio sentire la voce. Parla un po'. Niente, ma cos'è? Ma c'è stato un fatto qualche volta, un po' di tempo fa. Vediamo un po'. Vediamo questo. Vedi, produciamo. Sono registrazioni quelle. Chi è che ha quel bip? Per caso i ponti amatoriali a 29,6, 29,6 e spiccioli. Quel tono finale mi pare di riconoscere. Ma no, no, 27,200 quello era. Quando io ho detto ora poca cosa, dopo un po' è partito il, come si chiama, ha risposto il russo e poi ha sentito la voce di ritorno, quello che avevo detto io. E c'era il bip finale. La Coca-Cola si capiva bene, però il resto no, è troppo frusciato. KK. Avanti Cristian. Ha fatto bianco. Comunque da qui verso le 4, le 4 di sera, se tu c'è di baracchino, le 4 di sera ti metti 27-200 ti rivedi. Perché ascolti tutto c'è questa fonte ripetitore, poi si senti i russi che parlano. 27-200, una frequenza proprio sua. Invece gli americani di solito stanno 27-035, cazzo arrivano 9-20-9-25. Ehi, però se è 27-200 è polacco, poi vabbè, i russi sono lì, di confine magari, anzi sicuramente lo agganciano. 27-200, sì. C'è quel ponte, c'è. Ascolti tu che ascolti quel ponte, se lo agganci. È una cosa allucinante. Mi diverto ogni tanto. Però te l'ho detto, è troppo cacciarone quel ripetitore, anche se è un parro, te lo vorrebbero mettere un apparato con i subtoni, e solo chi sa come agganciarlo lo può agganciare. D'altronde anche con il Parrot PMR si faceva così, si metteva un subtono, se no qualsiasi immondezza che riceve te la ritrasmette all'infinito, capito? Non finisce più. Capito, registra e poi ritrasmette per un minuto, registra e ritrasmette, è un casino. E mi chiedevo come l'abbiano collegato la radio al baracchino. Lo vendono sempre, il radiotone, quello famoso che avremmo voluto provare anche noi. radiottone modello, non mi ricordo se era 88, come si chiamava, è nero. E poi c'è addirittura il Shurcom bianco, orizzontale, sembra un modem piccolino, modem wifi piccolino sembra, c'ha i led frontali, vabbè, mi piace meno l'aspetto, è bianco. Poi abbiamo lasciato perdere perché tanto tutta roba che non dovrebbe essere usata, quindi. Sul sito, come vediamo si chiama, cinese, c'è, allora, c'è un portatile, poi c'è questo cavetto che va da un portatile all'altro e ti fa, poi lo fate tranquillamente un po' terapia, ti puoi fare, capito? C'è l'ingresso e l'uscita dell'antenna. Ma se uno non ha un portatile, no? Se tu volessi attaccare un baracchino qualsiasi, come può essere un 3009, vabbè, l'audio lo prendi dalle cuffie, semplice, poi non so se devi mettere qualche cosa per ridurre, per fare l'audio a livello costante, in modo da non saturare l'audio. Per il microfono un po' più seccante magari, per innescare la portante, capito? Io cosa posso fare con 140? Il 140 c'è il box, e il box c'era anche il coso, come si chiama, il portatile, quello che ho io. Un chip di più plus, capito? Però visto che stanno vendendo quei portatili piccolini, che si possono usare come ponte, sono cinesi, sono più piccoli del vantaggio dell'888, e li puoi collegare, capito, ti fa il ponte in pratica. Eia. Guarda, i due president, due su tre hanno il Vox, il piccolo non so se ce l'abbia, quello piccolino, però gli altri due ce l'hanno il Vox. Vabbè, interessante. Ascolta Antonio, ti ricordi l'Intec, uno degli ultimi fatti, il modello 899 Vox, era praticamente un veicolarino MFM della Intec e aveva, a parte il microfono normale, frontalmente aveva gli attacchi cuffia e microfono tipo Kenwood, no? Cioè uno da un jack da 3.5 e l'altro era piccolo da quant'è? 2.5, no? Lì era più facile perché ti facevi gli spilotti tu senza manomettere presa microfonica o tutto, no? Era più immediato. C'aveva il cavettino per le cuffie, il cavettino forse per il microfonino da bavero, era semplice a me farlo con quell'apparato, però la Intec non c'è più da anni e quell'apparato non si trova più, no, non c'è più da nessuna parte. Già lo so, però l'ispirazione già si può fare con il 140 e con quel PMR, quello che ho io. Basta impostare il PMR e copiare il... agganciare tutti i due box, la regolazione giusta e tu parli tranquillamente in corso sul canale 7 in PMR e ascolti in FM su 14 eccetera eccetera, e poi puoi fare anche in pratica al contrario, parlare da 27 e 5 in PMR. Ah, fare le due bande incrociate, dai. Esatto, sì, al posto di uscire col baracchino portatile di quelli che sono, non servono a niente, quelli della 27, tu ne vai col PMR e l'altro lasci in casa come stazione base e ti aggancia a quello e a posto, poi li appompano, non è che non pompano, grazie, tu ne vai tranquillamente come facevamo le prove noi due e vai dopo dottore se ci tranquillamente il coso, l'apparecchio di casa tua, volendo, in 27, e parti, ti fai pure di extra, non so un altro, poi c'è un apparecchio che c'è nel box naturalmente, se non, con 140 viene bene a farlo, anche con, invece con 80 no. Ega. aspetta, questo Intel 899, vabbè, te l'ho detto, ha gli attacchi frontali, però anche il Vox, si chiamava 899 Vox, quindi lì era facilitato da fare. Per quanto alcuni Parrot, alcuni ripetitori tipo Radiotone, non hanno bisogno del Vox dell'apparato, commutano direttamente il PTT in trasmissione, capito? Mentre col vecchio Parrot, come si chiamava, il primo, quello proprio originale, quello che vendevano dal sito, esclusivamente da quel sito privato, necessitava che tu avessi proprio il Vox nell'apparato PMR. Questi nuovi, che poi sono nuovi, ci sono da 15 anni, tipo Radiotone, simili, non hanno bisogno del Vox dell'apparato, commutano in trasmissione dalla presa microfonica direttamente. Ho capito. Io vado sul sito cinese, o AliExpress, o Temu, lì dico di cosa ho avuto la serie, mi ha toccato l'alimentatore, se è spento. Io li trovi, si trovano come apparecchi lì, si trovano, già pronti per poter agganciare. Costano anche una fesseria, costa. Stavo notando su AliExpress. Addirittura ci sono questi baracchini in vendita, baracchini MFM, Abri, marcato Abre, scritto Abri, vabbè, però mi suona familiare un po', è come, mi pare fossero quelle antenne simili, quelle antenne a nastro per apparati CB o simili militari, e quindi anche baracchini stanno vendendo, e ricorda come forma il multimode 2 tipo mio, una cosa del genere, un misto tra un 3009 nero, ma anche un multimode 2 ricorda, chissà cosa, che circuito c'è, che scheda hanno. Ho capito, ma non è che mi sembra che si chiama. Comunque il multimode 3 è uguale all'LMS200, il multimode 2 è altrettanto, perché c'è l'accesso di niente, questo hanno fatto. E anche quello che ho io di qui, situazione base, Lego International, sono tutti e tre uguali, sono tutti e due uguali, sono LMS200, quello sono precisi. Come è stampato, l'unica cosa che cambia la sistemazione dei componenti e basta, poi tutto questo è preciso. Mi stavo guardando 899 Vox, però tutto esaurito, non disponibile. C'erano dei display a cristalli liquidi, smitter, poi ti ho detto questi attacchi frontali per microfonino da bavero oppure microfono cuffia, quello da attaccare all'orecchio, eccetera. Vabbè, comunque la Intec non esiste più, quindi non avresti nemmeno assistenza, eccetera, riparazione, nulla. Grazie, mi ricordo quell'apparecchio che avevano fatto una volta, quel tipo, il Saturday modificato, che aveva messo poco di strumenti digitali, cazzo, ma bello l'aveva fatto, tutto illuminato, gli avevo anche scritto addirittura, ho detto, ma l'hai comprato, gli ho detto, o l'hai fatto tu, dice no, l'ho fatto io, sono un ingegnere elettronico, l'ho fatto tutto io, ho detto, ma lo stai vendendo, perché... Dice no, mi ha detto, quanto watt tira fuori? E mi ha detto, dice, questo spara 150 watt, mi ha detto. E parte dalla frequenza 23 fino a 34, mi pare che era. Sì, me lo ricordo. Guarda, cosa tutto non ci ha messo? C'erano schede di tutti i tipi, c'era anche software, hardware, software gestionale per tutto quello che ci ha messo lui. Numeri componenti, frequenzimetro, alimentatore, un lineare incorporato. Guarda, cosa non c'era? Spettacolare, quello spettacolare come radio. Unica nel suo genere. Però mi pare di aver visto che di base abbia usato un baracchino Ranger. Un Ranger, l'ho riconosciuto dalla scheda. Hai presente il Ranger 2950DX o 2970, una cosa del genere? Assomiglia a Ranger, comunque era stato un turbo, che c'aveva tutti quei pulsanti, una fianca, due per volta, una fianca all'altra. E poi tutta il frontalino con le serigrafie, bello, veramente un bel lavoro quello. Certo, venderlo, se lo dovessi vendere dovrebbe costarti non so quanto, è un pezzo unico. Quello, se vendendo tipo, non minimo i 1500 euro l'avrei venduto, non minimo, perché è pezzo unico e vale un bel di là, capito? Faceva tutto, faceva, non mancava nulla, mancava solo ti faceva il caffè. Un bel appento, un bel appento, però la soddisfazione di avere un pezzo unico, poi vabbè, alla fine si può mettere quello che vuoi, sempre di base c'è sempre la scheda in un baracchino, dai. Se sbaglio andava anche in 40 metri, se non mi ricordo male. Beh, quello non lo so, a meno che non abbia messo un transverter dentro. Erano belli i transverter dell'epoca, quella della Electronic System. Io ho avuto quello 40-45 metri, però il finale era bruciato, non funzionante, quindi lo usavo per ricevere, però la ricezione era ottimo, l'avevo provato anche in macchina con l'antenna ovviamente risonante e riceveva bene. Avevo fatto un video anche di YouTube. E poi dicevo c'era il 40-45 metri, poi c'era anche quello addirittura due, forse tre bande mi pare. Vabbè, tre bande compresa la 26, non mi ricordo Antonio, però mi ricordo c'erano 40-45 metri, 80-88 metri e non so se ci fosse anche un'altra banda pirata. Non so quale potesse essere, boh. Me lo ricordo, c'era un bel roba, quando vi ho scritto, aspettate, che bello, apparecchio. Peccato che non lo stai vendendo, se avevi avuto soldi, fossi stato finito in questo scuola, te l'avevi comprato subito, gli ho detto. Ecco, l'ho trovato, allora. LB3 Electronic System Transverter era 20-25 metri, 40-45 metri e 80-80, quindi avevi 20 metri, 40 metri, 80 metri, più le bande annesse connesse pirata, più la 27 che era del baracchino in sé. È una bella bestia quello lì, certo roba obsoleta ormai, poi non ha senso adesso, con quello che ti chiedono per il trasverter ti viene già un HF, hai fatto tutto, ecco. Vabbè, permettimi un trasverter, preferisco PM, no, un HF sì, e faccio prima, anche il CDR, mi dico che vanno 0,30 come apparecchi, quello che mi è arrivato a me, cazzo, 129 euro, un cacciavite, cazzo, un mantellino e un metro, una taglierina e 5 cacciavite, cazzo, una bagazza, policulata, vabbè, no, beh. E non sono il primo perché in lista c'erano roba di 70-80 persone, infatti non ho più visto quel sito, invece che l'hanno castagnato forte. Lo vendevano anche negli anni 80 su Cico Elettronica, c'erano le inserzioni dei venditori dell'epoca, no? Mi ricordo Super Pantera, 11, 40, 45, 80, 88 metri, e li mettevano la scheda e trasverta dentro. Super Pantera sembrava praticamente, ricordava se cosa, un Superstar 3006, una cosa del genere, o un 3009 o un 3006, bella roba, la pagavi col sangue naturalmente all'epoca. E a Mario li avevamo sequestrato con la parete, con le Mario Masse, l'unica cosa che avevamo sequestrato è quello, se l'ha fatto via adesso forse. La parete faceva 11:40-45 faceva, e ha fatto via, infatti gli ho detto, là ci dice, ha fatto di sequestrare, ha detto, tramite un avvocato, e invece era già sparito da parecchio, ma siamo tenuto loro, siamo tenuti. Poi all'epoca, ma all'epoca non c'era anche il penale per queste cose. Quindi anche se tu ti punti e lo vuoi dissequestrare, perché il sequestro, ricordati, non è la confisca. Il sequestro è temporaneo, però tu puoi richiedere il dissequestro. La confisca è definitiva. Però se ti vai a quell'epoca, se ti andavi a puntare per la restituzione, dice allora noi procediamo in toto, e c'era anche, oltre alla sanzione, anche il penale, mi pare, per quelle cose lì. Poi da vari anni mi pare c'è solo la sanzione, comunque, la sanzione amministrativa, ecco, il penale l'hanno tolto. A Mario l'ha fatto, niente, la sanzione, l'hanno sequestrato, dice, gli apparecchi li tenga lì in casa, gli hanno detto, dentro questo bustone l'avevano messo da dei posti. Poi tramite, ha dovuto pagarsi l'avvocato, eccetera, eccetera, tramite l'avvocato che poi è riuscito a fare fuori le cose di sequestro degli apparecchi, e gli avevo poi rimessi a posto in casa, nel periodo lì. Ah, l'avevo ottenuto il dissequestro allora, ma di penale nulla era successo? No, niente. Siamo ricevuto in casa sua, io, quello mio, figurati, non sono neanche saliti a prenderlo, e ho detto che salga, appena sarà diritto, salga, già ci sono io qua, no, non ci salgo, non c'è lì, mi ha detto, ma tu mi avevi raccontato una volta di un apparato, o Natalino me l'aveva detto, non mi ricordo, di un apparato sequestrato a qualcuno, e mi pare che gli avevano restituito bucato col trapano da parte a parte, può essere? Di questo non lo ricordo, io mi ricordo solo che Angelo Del Filo, proprio ci aveva rimesso un milione, qualche cosa, l'ho fatto di multa per l'apparecchio che c'aveva. Allora l'avevano denunciato quello di fronte, sono andato a casa sua, gli hanno tolto via l'apparecchio e poi gli hanno messo pure la multa. All'epoca era delicata la cosa, poi c'erano meno utenti, c'erano più controlli, capito? Più casini, più lineari, più tutto, insomma. C'era quando dove il posto, veniva tutte le mattine sotto casa mia a controllare le macchine, non trovi più. Infatti facevo, ma torna qui, sì. Mi ha detto, devo fare i controlli, mi ha detto. Tu venivi, cazzo, là. Mi ha detto, abbiamo il signor Saba, la Jeep con lo stup dell'antenna puntata nell'antenna mia. Figurati. Poi si faceva il giro delle macchine. Aveva controllato a Pier Andrea, aveva controllato a cosa, ma Gesuino Lupo Giallo, il vetraio che c'era sotto casa mia, che allora c'aveva a Chino, quindi controllato. Anche Andrea Maricomi aveva controllato. Insomma, Andrea Maricomi, l'apparecchio non, il giorno prima mi ha controllato con watt, perché faceva 10 watt, e la mattina risalgono e si sono trovati con 2 watt e mezzo. Dice, come mai? Cioè, ieri era 10 watt e questo adesso c'è 2 watt e mezzo. Ma non è che avete fatto qualcosa? No, noi non abbiamo fatto niente, mi ha detto. Questo è allora io lavoravo con Marco Vitti, no? E avevo fatto la relazione, ho fatto il foglio di relazione che tentate che l'apparecchio era omologato e c'era 2 watt e mezzo. Sta tutto alfabetizzato. Mi ricordo che c'era il covo lì, no? Venivano tutti lì, ci avevi le scoposte praticamente a scampata sotto casa tua o lì dietro in zona, insomma. Ci giorni veniva, poi sono più fissa, fino sono andata in pensione, adesso tutta non so se dove sia, perché lavoravano assieme. Non ho più visto la verità, grazie a Dio, no, non ho più fatto anzi andavo, quando andavo a letto secco qualcosa con Mario Chine, lo vedevo tutti i giorni, mi faceva l'artista quando continuava, tu sei modello adesso, lo sai che sei modello, se non vuoi, gli ho detto, mi avete fatto pagare 80.000 lire per Mario, gli ho detto. 80.000 lire, vabbè, ma cosa vuoi che siano? Pensa a quello che ci sono beccati altri, un mottone da rovinarli. 80.000 lire per Mario ha pagato, non mi ha dato in concessione, c'era scritto, c'erano le 22.50 con l'omologazione dietro. Figurati tu, poi c'era ancora il foglio, c'erano 4 toccai scritti, il bibuccio tutto intorno, quello non mi ha detto niente, era acceso, bello, bollente, era, figurati. L'unica cosa è all'FT250, dice però me lo accendi, certo è tu l'accendo, quanti batti dai? 200 watt da. L'ha provato e l'ha usato, se hai ragione, mi ha detto. L'FT del 50 con l'omologazione, se tu sei matto, ma ti hanno voluto anche troppo bene, forse per la simpatia, Antonè, se no a te c'era da fare scempio all'epoca. Beh, alla fine sì, perché mi avevano chiamato da Cagliari, mi avevano chiamato, allora sono sceso giù, ho parlato con questo signore che lavorava lì alle poste, gli ha presentato il diploma dell'INAPRI eccetera eccetera, gli ha detto guarda che sto lavorando lì adesso in questa azienda e sto facendo il tecnico, dice tutti dicono così, mi ha detto, e allora ha detto guarda questo è il diploma e questo è il foglio dell'azienda dove sto lavorando, e quando ha visto te in contrario è stato zitto. Eia. Vabbè, manco a dirlo, Susanne tu gli l'ha fatto, non avete detto niente, e me non me ne d'accordo. Cosa ti è successo? Ah, vedi, adesso è normale. Oh, Antonè, mamma mi sta chiamando, sta reclamando la cena. Non mi raccorto dell'ora, porca miseria. E quindi stacco, dai. Vabbè, ci chiamo domani. Adesso faccio il panino a Simona. Vediamo nel panino con prosciutto, io mi mangio i gnocchetti che ho fatto stamattina. Con quel formaggio di medica, che ti trotti, mamma mia. Tutta la mattina quando ti alzi, fino al bagno. E fate l'impianto a gas a casa, altro che Medea. Qualche giorno prendo qualche bombola lì, bombolette di quelle lì del gas, quindi ci metto me la metto dietro in culo e faccio così, col figlio tappa. Anzi, mi pare che tu ce l'hai il bombolone condominiale, hai detto poco fa, no? Lo riempi tu. Ce l'ho il bombolone condominiale, a voglia, è sotto terra, messo proprio a 50 metri dall'hotel anche, quindi se lo faccio saltare in aria ci passa l'hotel, ci passa il distributore di benzina. Oh, scusa Antonè, ho risposto a mamma, dai, devo chiudere, ci sentiamo quando capita, ok? D'accordo, ok, ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao.